L'altro giorno Angelo Panebianco ha scritto che se non ci saranno novità, la democrazia, così come funziona nel Mezzogiorno, e l'unità del Paese potrebbero presto entrare in collisione. Concordo. Aggiungo che questo cortocircuito è più vicino di quel che si creda. E lo è al netto della Lega, del suo successo elettorale e politico per effetto del quale detta l'agenda. Tant'è che lo stesso Panebianco evidenzia un altro problema aperto da tempo e che secondo me è esploso con la ripartizione dei seggi al Senato su base regionale. La democrazia è servita al Sud più che per curarsi dei vizi antichi, per accrescere il proprio potere contrattuale nei confronti dello Stato e delle regioni più sviluppate. Senza il Sud, prosegue l'editorialista del Corsera, non si vincono le elezioni nazionali e questo dà a chi difende il Mezzogiorno, così come oggi, una fondamentale arma di ricatto nei confronti di qualunque coalizione politica nazionale. Il riemergere della pattumiera a cielo aperto è un'altra pagina scandalosa le cui avvisaglie erano vicine. La colpa è di Bertolaso? Di Berlusconi? No. Protezione civile e governo affrontarono di petto un'emergenza, ma poi toccava alla classe dirigente locale strutturarsi per mettere Napoli alla pari con l'Italia. Non è stato fatto, ed è persino fatica sprecata tentare di individuare il responsabile, in quanto il parametro della responsabilità commisurato all'efficienza della gestione politica non è mai stato tra gli elementi di valutazione nell'elettorato meridionale. Si vota se conviene, si vota se c'è un tornaconto, si vota questo o quel politico se costui risarcisce quel che lo Stato deve ai meridionali, nel senso che i meridionali sono, questo secondo la Vulgata, vittime del Nord. È questa foglia di fico che va rimossa una volta per sempre se all'Italia interessa non perpetuare la questione meridionale e viceversa. Oltre la vergogna dell'immondizia per strada, con tutto quello che ne è scaturito, non va persa di vista l'incapacità a gestire la sanità. Una sanità che è interpretata come poltronificio, come ostificio, come burocrazia, non come diritto di ogni cittadino ad essere curato se sta male. La commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario inchioda gli amministratori meridionali a dati che sono raccapriccianti. La metà delle vittime per mala sanità è deceduta in strutture della Calabria e della Sicilia, per non dire del requiem che accompagna i bilanci regionali delle solite regioni, proprio alla voce sanità. Né il Sud né il Paese possono andare avanti così. E ce n'è per destra e per sinistra, sia ben inteso. Il federalismo, inteso sia quello normativo sia quello fiscale, può essere l'occasione per il cambio di passo. Se ne discute ormai da un decennio, con alti e bassi. Quando però si arriva al dunque, c'è un ma e un se di troppo che frenano gli ingranaggi. Da dove provengono i ma e i se? Dal Sud. Perché, è questa la cantilena, il Sud non deve essere la vittima di questa riforma. Diciamolo senza equivoci. Quel tipo di Sud, che anche Panebianco fotografa senza cedimenti leghistizzanti, non può che rimetterci dal federalismo, nel senso che il passaggio dalla spesa storica alla spesa standard metterà le giunte con le spalle al muro, visto che non sarà più possibile sprecare soldi pubblici senza che ne consegua una bocciatura dell'assessore o del presidente. Al contrario, se il Sud volesse davvero attuare una rivoluzione copernicana, diventare moderno, allora il federalismo può diventare lo strumento giusto, magari attuandolo in due tempi, così da consentire al centro-nord di approfittare subito dei vantaggi del federalismo. Conosco l'obiezione. Sarebbe una secessione morbida. Non è vero. Sarebbe una scommessa su una rinnovata unità d'Italia, dove finalmente non esistono più alibi per politici incapaci. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gianluigi Paragone «Se il Sud non cambia, l'unità è a rischio», dal Libero del 28 ottobre. I quiz sono un ottimo sistema per imparare meglio la materia di cui ci stiamo occupando. Insomma, una sorta di scorciatoia per la nostra memoria. Come questo possa accadere, lo spiegano due psicologhe della Kent State University nell'Ohio, Mary Pick e Catherine Rawson, in un articolo apparso sulla rivista Science. I quiz sarebbero così efficaci perché aiutano il nostro cervello a generare indizi basati su associazioni di parole o concetti che ci supportano nel ricordare una determinata informazione e a farlo in modo molto più efficiente di quanto avviene quando ci limitiamo a studiare a memoria.